Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Siamo a lunedì e quindi è un piacere avere come ospite al telefono Gianluca Codognato dell'Adico. Ciao Gianluca. Ciao Francesco. Allora ricordo Adico, Associazione Difesa Consumatori di Mestre, con te Gianluca andiamo a trattare un nuovo argomento. Abbiamo appena superato il weekend, cosa c'è di più bello? Di sedersi su un divano bello, non dico caldo ma avvolgente, dove magari puoi alzare le gambe, rilassarti, perché no, magari per vedere una bella partita dell'Italia. Sì, appunto, siamo anche in periodi europei, quindi sarebbe sicuramente piacere stare nel proprio divano, a meno che questo divano non abbia la pelle sgonfia, non si macchi con i vestiti, non abbia i cuscini che convergono al centro, insomma, a meno che questo divano non abbia dei difetti. E purtroppo devo dire che in questo periodo Adico sta lavorando molto su questo fronte, perché abbiamo avuto più casi di persone che hanno acquistato, dopo tra l'altro aver visto le pubblicità, le tante pubblicità che vengono fatte in televisione, hanno acquistato dei divani andando nel mobilificio, nel negozio, hanno scelto il divano preferito, però quello che è arrivato a casa non era assolutamente quello che avevano richiesto. E stiamo parlando insomma di cifre importanti, ovviamente. Ecco, cifre importanti, perché poi è anche vero che ci sono tantissime offerte, soprattutto in televisione la pubblicità ci sommerge di divani, quasi che uno dice, ma perché io non ce l'ho questo modello? Ti viene da fare un pensiero così, perché le pubblicità insomma ci martellano. Sì, diciamo, la pubblicità appunto ha questo scopo, e chiaramente un divano è comunque un oggetto che non può mancare in una casa e dura teoricamente per anni, quindi insomma è un oggetto molto importante, per questo comunque ha un certo costo, e quindi insomma voglio dire, quando c'è una buona offerta, soprattutto pubblicizzata alla grande tramite la televisione, chiaramente il consumatore, il cittadino consumatore dice, ma perché no? Vado a comprarmi un bel divano in uno di questi mobilifici, in uno di questi negozi, e sicuramente insomma ne uscirò contento. Diciamo, noi chiaramente siamo un'associazione dei consumatori e riceviamo poi le persone insoddisfatte, ovviamente, quindi non voglio dire che qualsiasi divano nasconda delle insidie. Però è vero che più volte, non è la prima volta che succede, in questo periodo ne abbiamo tante segnalazioni, però tante volte ci viene detto che il divano che arriva a casa è diverso rispetto a quello che si era ordinato nel negozio. Non vale solo per i divani, vale anche per la cucina, vale per altri tipi di mobili, però il divano, diciamo, è diventato l'emblema di questa situazione. E ti dirò di più, Francesco, soprattutto il divano di pelle, perché effettivamente nei negozi, da quello che dicono ovviamente i nostri iscritti, nei negozi quando vai a vedere il divano te lo trovi tutto bello gonfio, pieno, con questa bella pelle lucida, eccetera. Poi quando è arrivata a casa abbiamo avuto due casi di situazioni per le quali quella pelle era completamente sgonfia, quindi praticamente era come se non avesse dentro l'imbottitura. Addirittura in un caso i vestiti rilasciavano sul, qualsiasi tipo di vestito rilasciava sul divano delle macchie. In un altro caso, sempre stiamo parlando poi di mobilifici che fanno pubblicità in televisione, in un altro caso, dicevo, addirittura i cuscini convergevano in centro, e quindi insomma c'erano delle problematiche. Qual è il discorso? Noi ammettiamo insomma che ci possano essere dei problemi, dei vizi, mica pretendiamo la perfezione, però diciamo, ecco, forse un invito che lanciamo anche ai negozianti, insomma, quelli di essere più disponibili nei confronti dell'acquirente quando va a contestare che l'oggetto acquistato non corrisponda a quello che poi era esposto. Invece ci troviamo di fronte, non noi ma l'acquirente, quando va a protestare si trova di fronte a un muro di gomma. Abbiamo avuto per esempio la situazione della persona che si è trovato il divano, la poltrona macchiata tramite i vestiti, e il venditore gliel'ha appena pulito, con sembrava quasi avesse utilizzato il bianchetto. In altre situazioni non è stato accordato nessun tipo di cambio della poltrona del divano. Quindi, insomma, alla fine dobbiamo intervenire noi. È chiaro che quando interveniamo noi, interveniamo con l'ufficio legale, quindi, insomma, siamo molto più duri dell'acquirente che invece chiedeva semplicemente che venisse rispettata la loro volontà. Ecco, quindi sarebbe bello che ci fosse un po' più di disponibilità da parte dei venditori, considerando che queste persone tirano fuori alcune migliaia di euro per questo tipo di acquisto. Certo, io ho imparato una cosa in tanti anni che ormai parlo con te, anche con Carlo Garofolini, insomma, che abbiamo un telefono che fa delle foto. E la cosa migliore è scattare le foto, sempre, comunque, quando stiamo per comprare qualcosa, facciamoci delle belle foto dell'oggetto, in maniera che quello che abbiamo ordinato è quello che effettivamente poi dobbiamo ritrovarci a casa. Perché è vero che poi quando siamo in un negozio ci sono anche le luci posizionate in un certo modo, dove magari a casa non ci sono, e l'apparenza certe volte è diversa dalla realtà. Ecco, diciamo che poi, Francesco, dai un ottimo suggerimento, perché chiaramente poi con le foto avvantaggi moltissimo anche il nostro lavoro, il lavoro del nostro ufficio legale, per tutte le casistiche, insomma, uno che inciampa su una buca, una macchina strisciata, insomma, effettivamente adesso che abbiamo i telefonini, tutti i telefonini che fanno le foto, dai, ha dato il consiglio giustissimo, tu dovresti collaborare con noi, ha dato il consiglio giustissimo, perché è giusto, insomma, avere il materiale fotografico che ci può aiutare molto, e può aiutare molto l'associazione anche a intervenire, a tutelare il consumatore. E allora ricordiamo il sito www.associazionedifesaconsumatori.it. Se vi è capitato di avere qualche problema con qualche acquisto ultimamente, potete chiedere lumi all'associazione. A questo punto, Gianluca, io ti saluto e questa sera mi siederò comodamente nel mio divano. E allora buon divano. Ciao Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.